Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, ciao a tutte e ben sintonizzate, quella che state per ascoltare, la nostra 139esima trasmissione. E oggi in studio siamo io, Caterina, e con me c'è Pina. Ricordo che potete dare un segnale della vostra presenza inviandoci un trillino allo 06 49 17 50 oppure tramite uno dei vostri graditissimi messaggi al numero del nostro cellulare a disposizione per voi, che è 338 4146 682. Dunque, gli argomenti di oggi comprendono storie di donne che la storia ha cancellato o occultato. Io sono una affezionata alla rubrica, infatti, Donne e Storia, e che noi appunto siamo invece convinte che loro siano per noi una ricchezza. Vogliamo riscattarle e attraverso questa conoscenza permettere loro di uscire dal buio e dal silenzio nel quale sono state confinate. Memories flood my weary heart. I mourn for my dream. Come al solito litigato con i CD. Dunque, oggi vi parleremo prima di Anne e Mary, che erano due donne pirata, e dopo di Louise Labbé, una poetessa che a suo tempo fece scandalo per le cose che scriveva. Per il momento ascoltiamoci insieme uno stacco musicale, anche per darvi il tempo di scrivere un vostro messaggio di buon augurio al numero che, ripeto, è 338 4146 682. Allora, quella che ascolteremo adesso, e cominciamo bene perché si è cantata da Céline Dion e il brano è Like a Neutral Woman. Woman, Allora, come abbiamo preannunciato nel piccolo intervento introduttivo, parleremo di donne pirata. Dunque, io non so voi, ma quando ero piccola ricordo che le storie rocambolesche dei pirati mi affascinavano moltissimo, forse per una voglia di avventura che trovava sfogo attraverso le storie di personaggi così tanto attraenti. Da sempre però mi suonava strano che per potermi identificare con chi compiva tante avvincenti imprese avrei dovuto necessariamente essere un maschio. Bene, so cosa state pensando. Visto che sono lesbica, forse state traendo semplici conclusioni e magari affermando e te credo, sai che sforzo, no, sarebbe troppo facile. In realtà non è proprio così, perché il problema dell'identificazione è un po' più complesso. Posso darvi in parte ragione confessando che anche all'epoca preferivo dire in ogni caso che ero una pirata femmina piuttosto che fingermi maschio. Anche affrontando a volte le ire dei compagnetti di gioco che sicuramente avrebbero preferito avere l'esclusiva della dinamicità e dell'azione, ma anche affrontando, devo confessare, la derisione delle compagnette che, perfettamente condizionate dal sistema, invece, il più delle volte preferivano abbandonare i loro desideri di vivacità, restando ferme in attesa di essere rapite da cotanti, seducenti eroi. Il problema era che dentro di me io sentivo le potenzialità e il desiderio di compiere tutte quelle cose incredibilmente attraenti che facevano i pirati, tipo effettuare degli arrembaggi, solcare i mari su delle navi a tre alberi, accumulare tesori, bere nelle taverne, seminare terrore, incutere rispetto e tutto il resto, insomma. Mi piaceva l'idea di essere molto potente, di non avere padroni e di essere libera. E non soltanto io che da grande poi ho deciso di vivere il mio lesbismo, sono convinta che anche le mie compagnette avevano gli stessi miei desideri di gioco. E sono sicura che anche voi che state ascoltando, maschi o femmine che siate. Il desiderio di essere potenti, di poter trasgredire le regole, di essere quasi soprannaturali, è in realtà quasi un passaggio obbligato nel percorso di crescita di ogni individuo. L'esternare emozioni definibili come negative o esprimere cattivi sentimenti non necessariamente significa agirli nella realtà. Cioè, voglio dire che se da piccole desideriamo di essere malvagie, non necessariamente lo saremo davvero da grandi. Contrariamente a quanto si possa pensare, è sicuramente molto utile identificarsi totalmente o parzialmente con un cattivo, perché farlo significa creare un'occasione preziosa all'interno della quale si ha la possibilità di esprimere emozioni che normalmente vengono represse. Ben vengano quindi i pirati, ma allora perché non permettere anche alle bambine di potersi identificare con uno di questi personaggi creando una figura femminile che risponda a questi requisiti? Perché i personaggi femminili devono per forza essere il frutto del contendere per il quale poi si effettuano invece tutte quelle imprese così mirabili? Perché le figure femminili devono necessariamente stare relegate in un castello in attesa di essere salvate? E perché, una volta salvate, la storia finisce facendo inevitabilmente sposare loro chi le ha salvate? Le donne di cui vi parleremo stasera, Mary Read e Anne Bonny, sono realmente esistite. Ma nessun autore si è mai ispirato a loro per un romanzo d'avventura. Lo stesso Salgari, ad esempio, pensava che le loro gesta fossero troppo movimentate e scandalose. E allora ecco che noi, paladine delle dimenticate, non essendo in grado di scrivere romanzi d'avventura, ci limitiamo a narrarvi la loro vita e le loro storie, magari con la segreta speranza che qualcuna di voi possa un giorno inviarci un romanzo impostato con altri criteri, forse meno commerciali, ma più corretti. Eccomi qui. Buonasera a tutte, sono Pina e incomincio a parlarvi io della storia di Anne e Mary Read. Infatti, nell'ambiente della pirateria, l'omosessualità e il lesbismo erano estremamente diffusi. Anne Bonney e Mary Read furono la coppia più famosa di pirate inglesi del Settecento. Mary nasce a Londra o a Plymouth, non sappiamo con certezza, verso il 1690. La madre, sin dalla più tenera età, nasconde il suo vero sesso vestendola da maschietto. Dopo un primo lavoro come valletto in casa di una ricca signora, Mary si arruola nell'esercito e si ritrova a combattere nelle Fiandre. Seguirono una serie di avventure militari in cui si distinse per il suo coraggio e le sue capacità, che le fecero guadagnare la stima dei suoi superiori. In seguito decise di abbandonare l'esercito e si imbarcò su un vascello in partenza per l'America, sperando di fare fortuna altrove. Il vascello su cui si trovava, però, fu attaccato durante il viaggio dai pirati. E come era costume presso di loro, questi convinsero Mary, che credevano un uomo, ad unirsi a loro. Da quel momento comincia dunque la vita piratesca di Mary Read. I'm steady thinking, my way is clear, and I know what I will do tomorrow. Anne invece nasce a Cork, in Irlanda, figlia illegittima di un avvocato già sposato e di una ragazza della servitù. Ma la loro relazione fece talmente scandalo che i due decisero di imbarcarsi con la figlioletta per l'America. Si stabilirono nel South Carolina, dove il padre riprese ad esercitare la professione di avvocato, diventando anche un ricco proprietario terriero. Anne si innamora di un marinaio, che sposa contro il consenso del padre e per questo viene diseredata. Con il marito poi si trasferirono su un'isola delle Bahamas ed è qui che conobbe il pirata Rackham. Anne si innamorò a tal punto che lasciò per lui il marito e lo seguì a bordo della sua nave. Ed è su quella nave che Mary ed Anne si incontrarono. Le recensioni che parlano di loro, in modo molto diplomatico, citano: svelatesi vicendevolmente la verità circa il loro vero essere, divennero amiche e molto affiatate negli scontri e negli abbordaggi. Molto abili nell'uso delle armi bianche e delle pistole, risultarono anche particolarmente agili nel saltare all'abbordaggio. Questo valse loro l'appellativo di feroci gatte dell'inferno, e si diceva che nessun altro pirata era altrettanto sfacciato e coraggioso. Tuttavia, dopo una serie di avventure vissute insieme, furono catturate nell'ottobre del 1720 mentre si trovavano nelle acque della Giamaica. Anche in occasione della loro cattura, Anne e Mary si distinsero perché, anche se in evidente inferiorità numerica rispetto ai soldati che le stavano attaccando, combatterono strenuamente, anche incitando i compagni e gridando loro a più riprese: «Venite, cotardi, e combattete da uomini!». Quando alla fine si scoprì che questi due pirati erano invece delle donne, fu deciso che il loro processo sarebbe stato discusso separatamente da quello degli uomini, i quali, il 28 novembre 1720, furono tutti impiccati. Anne, che assistette all'esecuzione di Rackham, non ebbe per lui parole d'amore ma di disprezzo. Infatti sembra che abbia affermato: se tu avessi saputo combattere come un uomo, non saresti oggi ridotto ad essere strozzato come un cane. Molte furono le accuse rivolte a Mary Anne. Furono accusate di aver aderito volontariamente e non per costrizione alla pirateria. Negli atti del procedimento si legge, testualmente: indossavano giacche da uomo, calzoni lunghi e fazzoletti legati dietro alla testa. Ognuno di loro aveva un macete e una pistola in mano. Non sembravano essere impedite o trattenute con la forza, ma per loro consenso e spontanea volontà. Alla fine del processo, questa fu la sentenza emessa: voi, Mary Read e Anne Bonney, andrete da qui al posto donde venite e di là al posto dell'esecuzione. Qui verrete in seguito impiccate per il collo fino a che sarete morte. E Dio, nella sua infinita bontà, abbia pietà della vostra anima. Do you really care? I can't really. Mary ed Anna, al pari dei loro compagni, o meglio dei loro ex compagni, furono dunque condannate a morte, ma riuscirono a cavarsela. Dichiararono di essere entrambe incinte e, siccome la legge inglese non permetteva la condanna a morte nel caso di donne in stato interessante, la pena fu temporaneamente sospesa fino a dopo il parto. Sicuramente non furono impiccate, in quanto non sono stati ritrovati mai documenti comprovanti la loro esecuzione. Non è sicuro però di quanto accadde in seguito. Pare che Mary morì in prigione dopo il processo a causa di una violenta febbre, ma c'è anche chi sostiene che in realtà la donna si finse morta e poteva evadere di prigione grazie a un travestimento. Quanto ad Anna invece si racconta che il padre corruppe i carcerieri per farla evadere. Secondo altri la sua fuga si troverebbe invece al giudice del tribunale che l'aveva condannata e che si era perdutamente innamorata di lei. Entrambe le versioni comunque, e quindi indipendentemente dall'artefice della liberazione, sembrano concordare sul fatto che Anna fuggì. E chissà, forse questa è effettivamente la verità. C'è addirittura chi sostiene che Anna visse il resto della sua vita in Inghilterra, dove aprì una taverna nella quale intratteneva gli avventori con i racconti delle sue imprese e delle sue avventure. Beh, forse se avessi conosciuto questa storia quando ero ragazzina, non avrei dovuto faticare così tanto per dimostrare che ero in grado anch'io di essere una pirata. In ogni modo, per la tranquillità di tutte e tutti, voglio confermare che oggi sono una donna tranquilla, si fa per dire, e che non passo il mio tempo a rapinare banche. Però chissà, forse l'essere riuscita a sognare di vivere le imprese di una pirata, anche contro ogni convenzione, mi ha aiutata a non tirarmi indietro quando mi definivano diversa. Chissà. Ma guarda che, anche essendo state descritte da così tante avvincente carica avventurosa, nella realtà le geste piratesche non erano poi così romantiche come dicono i romanzi. Pensa che ancora ad oggi, ad esempio come nelle acque asiatiche, così come nel Mar Rosso, in Ecuador e nell'America meridionale, la pirateria ritrova attualità e gli odierni bucanieri operano attacchi efferati nei confronti delle loro vittime grazie al fatto di essere dotati, tra l'altro, di apparecchiature satellitari e di armi sofisticatissime. C'è però una differenza. I pirati primitivi, citati anche da Omero nell'Odissea, aspettavano il passaggio della preda nascosti dietro un'insenatura, puntavano sulla velocità e sull'elemento sorpresa per piombare sulla nave di turno ed impadronirsene. Rimangono celebri anche le imprese nel Mediterraneo dei Fenici e dei Greci. Ma in effetti le vicende della pirateria accompagnano lo sviluppo stesso della navigazione. Ma non appena si intensifica il traffico commerciale, queste diventano sempre più feroci e cruente. Ben diversi infatti saranno gli attacchi dei corsari all'inizio del regno di Elisabetta, che fecero sembrare i predoni precedenti patetici e dilettanti. Era il momento delle colonie nelle Indie occidentali e l'Atlantico veniva solcato soprattutto dai velieri inglesi, spagnoli, olandesi, portoghesi e francesi. E grazie alle patenti concesse dai sovrani, i corsari erano autorizzati a prendere d'assalto le imbarcazioni delle potenze nemiche, in modo da distruggerne i commerci, ma anche i rifornimenti. Aspetta un attimo, stai dicendo che per un tornaconto economico e politico si faceva in modo che certi personaggi, sia pure identificabili sicuramente come persone pericolose, fossero in qualche modo legittimate a fare quello che facevano? Cioè veri e propri pirati consentiti, banditi autorizzati, che godevano dell'appoggio dei potenti e che rimanevano in auge almeno fino a quando tornava utile agli stessi potenti che restassero lì? È questo che stai dicendo? Hai capito benissimo, proprio così. Ma pensa un po'. Ed io che ero convinta che gli americani nella loro esistenza avessero pensato almeno una cosa nuova, sia pur sconvolgente. Sai, quando hanno lasciato che Saddam... Sì, dai, e poi pure Bin Laden. Ma cosa vuoi farci? Secondo me non hanno proprio speranza, oltre a non avere storia. E infatti, prima li hanno legittimati e poi li hanno disconosciuti. Già. Beh, Ascoltiamoci una canzone, va, che è meglio. E ti prego però non mettere quella, eh. Dai, è troppo carino. Ma sapete cosa vorrebbe farvi ascoltare? Una canzone che a detta sua ha favorito l'identificazione di molte bambine in uno dei pochi personaggi femminili per i quali è così, ti giuro, valeva la pena sognare. È così. Non lo fare, ti dai, prego. Solo un pezzettino, dai. Non è lo fare. Troppo carina. Facciamo così. Decideranno le ascoltatrici e poi, scusa, chi sta al mixer? Io. Ricordi prima quando dicevo che avevo sognato spesso di avere tanto potere? Questa è un'occasione troppo ghiotta, lasciami fare. Vabbè, allora decidiamo di mandare un pezzettino e vediamo i consensi. Tanto vediamo trillini, i trillini e messaggi, ci aspettiamo qualche cosa. Vabbè. Fateci sapere. Tanti trillini, siete contenti, andiamo un po' avanti. Pochi trillini, la leviamo subito. Va bene, vedrai che ho ragione. Perfetto, vediamo. Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più. Biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu. Nella culla ti ha messo un fioretto, Lady dal fiocco blu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh, lo Lady, sapevo. Lady, Lady, Lady Oscar, come un moschettiere. Quota 4 trillini, forza, e vai, e vai. Altrimenti fra pochi secondi la togliamo. Datemi ragione, dai, fate grazie. Stanno continuando, non ci credo. Buia la corte di Francia. Ho torto collo, toccherà andare avanti allora. Adesso per punizione ve la ascoltate tutta, eh? Facciamo così, usiamola come sottofondo per il nostro intermezzo. Nella grande stanza del re, un scatto felino ed abile mossa colpirà tutte e tre. Sembra superfluo ripeterlo, però state ascoltando, è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Giura! Trasmissione, indovinate, a cura di chi? Del coordinamento lesbiche romane. All'interno dello spazio autogestito femminista e lesbica di Radio Onda Rossa sugli 87 900 MHz. Magari se parli nel microfono sentono pure, grazie. Ma sti trillini che arrivano è per la mia voce o per Lady Oscar? Lady non Oscar sicuramente ancora. Vabbè. Lo sapevo. Vabbè. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. A tal proposito salutiamo le donne di Caserta, di Bari e di Milano che nel corso delle trasmissioni precedenti ci hanno mandato un loro messaggio. Anche per oggi ne aspettiamo molti. E come diciamo sempre, se le cose che avete da dirci sono molte, potete inviarci un'email all'indirizzo di posta elettronica, no? contatti@clrbp.it. Oppure ci potete inviare un fax allo 06 6864201, oppure anche per l'amante della carta ci potete scrivere una lettera e la potete indirizzare a CLR presso Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Ripetiamo però a questo punto anche il telefono della radio. E fammelo ridire a me che non ho detto niente fino adesso. Allora, il telefono della radio è lo 06 49 17 50. Ringrazio l'ascoltatore che ci ha detto di aver gradito Lady Oscar ed è per la sua richiesta che la sto rimandando, utilizzandola ancora come sottofondo. Dunque il nostro invece telefono cellulare sul quale inviare i vostri messaggi è 338-4146-682. Quindi riascoltiamo un pezzettino di Lady Oscar e poi andiamo avanti. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, non ci credo, non voleva che la mettessi e poi si mette a canticchiarla, non ci credo. Lady Oscar. Notte buia alla corte di Francia, a palazzo si dorme già. Tre briganti con spade e con lancia, agguato a sua maestà. Lady Oscar si è proprio nascosta nella grande stanza del re. Un sasso felino ed abile mossa colpirà tutte e tre. Che dici, andiamo avanti? Io l'ascolterei all'infinito, anche perché è deliziosa questa canzone, però andiamo avanti. Allora, come... Pina, vuoi tornare con noi? Grazie, molto gentile, i messaggi li leggi dopo, smetti di giocare con il telefonino, ti prego, dobbiamo andare avanti. Avanti, su. Va bene. Dammi gli occhi. A te gli occhi. Ok, grazie. Appena sei pronta, io faccio. Veramente toccherebbe a te la scaletta, non te la ricordi, ma adesso tocca a te. Allora, utilizziamo il finale di Lady Oscar e tu cominci a leggere il pezzo che avevamo concordato, d'accordo? Se posi quel telefonino mi fa sì, piacere, no, grazie. No, no. Io il telefonino lo poso immediatamente, non appena ringrazio Simone e Alessandra, le quali ci hanno mandato un bellissimo messaggio, lo leggo in diretta. Dai. Ciao, siamo Simone e Alessandra, con voi passiamo dei bei momenti fantastici, siete grandi, un bega saluto. Grazie. Ecco, questo chiaramente, come voi potete immaginare, cara Simone e Alessandra, ci rendono estremamente felici, non fanno sentire inutile il nostro lavoro e ci incitano a proseguire oltre. Grazie ancora. Però adesso proseguiamo. Adesso però riprendiamo in mano il discorso, no? Stavamo parlando proprio di donne storie. E quindi, a proposito di donne storie, passiamo dalle pirati alla poetessa, ed esattamente a Louise Labbé, che è stata una poetessa colta e di buona famiglia, che scandalizzò tutti con le sue composizioni traboccanti di abbandoni erotici e di desideri. A dispetto di tutto e tutti, Louise continuò sempre a dichiarare tali bramosie legittime, nonostante i severi divieti morali dell'epoca, e già perché stiamo parlando, indovinate quanto? Lei è nata nel 1524 a Lione ed è morta nel 1566, quindi a poco più di 40 anni. Louise Labbé è un classico della poesia francese. Il suo tema principale, anzi possiamo dire anche esclusivo, era l'amore, e dedicò la raccolta delle sue poesie ad una donna, la giovane letterata e musicista Clémence de Bourges, che abitava nella sua stessa città. Louise Labbé è stata l'erede ideale di Saffo e di quelle trovadore provenzali che nel XII e XIII secolo avevano cantato l'amore di donne, come la celebre Biéry de Romain. La caratteristica più affascinante e sovversiva della sua poetica è l'ardore, la grande capacità di esprimere un desiderio senza freni, romantico ma anche intensamente erotico. Je suis le corps. Io sono il corpo, affermava con fierezza Louise. Only a woman's heart can know the tears that drip. Louise era figlia di un fabbricante di corde. Era tanto bella da essere descritta da un contemporaneo di aspetto angelico più che umano. Aveva imparato a perfezionare il latino, il greco, l'italiano e lo spagnolo, ma, tenuto conto dei tempi, fu costretta a farlo chiaramente da autodidatta. Infatti, la prima scuola di donne in Francia avrebbe aperto i battenti solo nel 1574, esattamente 8 anni dopo la sua morte. La sua passione per i cavalli la spinse a diventare giovanissima un'esperta cavallerizza. Un'altra sua passione fu la musica. Suonava con maestria il liuto, che abbandonò solo per la scrittura. Certo, queste donne che sono state eccezionali, voi ricordate, insomma, le nostre precedenti donne, che Amélie non mi ricordo il cognome, Caterina, me lo provi a ricordare? Amelia Earhart, che fece la trasformata. Chi? Marie Marvigna. Marie Marvigna. Che faceva tutto praticamente. Praticamente faceva di tutto, no? E beh, anche lui dalla scrittrice alla musicista, a imparare il greco, l'italiano, lo spagnolo, quindi insomma è da autodidatta, insomma, cioè voglio dire, poi alla fine le donne risultano sempre vincenti in ogni cosa che fanno. Chissà perché poi sono sempre oscurate. Vabbè, continuiamo a parlare comunque di Louise LaBey, va? Libera e spregiudicata, venne etichettata a torto come cortigiana, con lo stesso meccanismo diffamatorio che colpì anche alcune grandi poetesse italiane del Cinquecento, da Gaspara Stampa a Veronica Franco. In realtà Louise visse semplicemente se stessa. Il problema era l'ambiente di Lione, chiaramente, magari anche culturalmente raffinato, ma non pronto ad accoglierla. Innamorata dell'amore, Louise LaBey scelse di viverlo soprattutto in una dimensione creativa, fuori dalle norme patriarcali della sua epoca, ma all'interno di una secolare genealogia di resistenza femminile. La stessa resistenza femminile che una sua coraggiosa ed eretica connazionale, Christine de Pizan, di cui ci ripromettiamo di parlarvi in un'altra trasmissione, aveva già delineato nel 1405 col suo trattato utopistico dal titolo La città delle donne. Le opere di Louise LaBey stampate nel 1555 ebbero tanto successo, pensate, da essere ristampate l'anno successivo in una quantità decisamente straordinaria per l'epoca. Comprendevano il testo di una prosa, contrasto di follia e amore, ed una prefazione alle poesie che rappresenta un vero e proprio manifesto femminista, in cui Louise si rivolge alle donne incitandole a farsi valere e ad esercitare appieno la loro libertà nella scrittura e negli studi. I primi testi poetici della raccolta sono tre elegie autobiografiche nelle quali Louise narra l'irrompere dell'amore nella sua vita e parla esplicitamente di amour lesbien, di amore lesbico, e questo amore è per lei totale. Ascoltate cosa scriveva. Tu, e solo tu, sei il mio bene ed il mio male. Con te ho tutto, senza di te niente vale. È un amore che accetta il rischio della sofferenza, e infatti scrive: non rimproveratemi, dame, se ho amato, se ho sentito mille torce ardenti, mille pene, mille dolori mordenti, se piangendo i miei giorni ho consumato. È un prezzo che Louise era disposta a pagare per il piacere della felicità, descritto nel notissimo Sonetto dei Baci ed in tante altre liriche gioiose ed estatiche. Del resto, dalle eventuali ferite della follia d'amore, Louise sapeva come curarsi. Sapeva, come dice in un sonetto scritto tra l'altro in perfetto italiano, che rimedio non v'è se tu nol dai. Tra i suoi sonetti, uno dei più noti inizia con il verso «Finché i miei occhi potranno piangere» ed è bellissimo. Spero solo di non farle torto leggendolo. «Finché i miei occhi potranno piangere sulla gioia che un giorno ho goduta con te, finché la mia bocca non sarà muta per i troppi sospiri ed il singhiozzare, finché la mano mi potrà accompagnare mentre canto il mio amore sull'arpa arguta, finché il mio cuore si rifiuta di accogliere ogni altra cura all'infuori che pensare a te, io non domando ancora di morire. Ma quando io senta gli occhi inariditi, la voce rotta e la mano languire, quando mostri di aver caro il mio cuore che non lo tocchi più in questa vita, amore, allora venga morte e faccia diventare nero il giorno chiaro». You, but I think Io ho tolto il CD sbagliato, come al solito. Adesso metto la canzone che dovevo mettere posizionandolo su quell'altro. Abbiate un attimo di pazienza. Il titolo... Aiuto! Il titolo è I Am a Good Woman ed è di Cold Blonde. And I know, I said I know that you got another woman somewhere around. But hey, I'm a good woman. Don't treat me like dirt. Oh, listen here, I don't go nowhere. You know you don't even take me out if I put on my dress, baby. All you wanna do is start a fight. But even my next door neighbor, y'all know the shape I'm in. They're all around there talking, even my so-called friend. But you know what I'm gonna do? I'm gonna move. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on. Beh, non ve ne starete mica andando, anche perché noi dobbiamo rimanere qui fino alle 10, fateci un pochettino di compagnia. Allora ringraziamo tutti quelli che ci hanno, tutti e tutte quelle che ci hanno mandato dei trillini, le affezionate dei messaggi. Noi ci siamo rese conto di aver parlato proprio tanto, quindi lasciamo questi ultimi 10 minuti ad ascoltare della buona musica. Noi però lasciamo sempre acceso il telefonino per mandare i messaggi. E quella che state per ascoltare invece è una mia prediletta, la adoro questa cantante, ed è Melissa Etheridge con il brano I Want to Come Over. I know you're home. You left your light on. Your lover is gone. Dai Trillini capisco che non la amo soltanto io, Melissa. Quasi quasi vi ridico i siti ufficiali di Radio Onda Rossa e quello del CLR. Allora, il sito di Radio Onda Rossa è www.ondarossa.info e invece quello del CLR, cioè il nostro, è www.clrbp.it. Se volete mandarci dei messaggi o delle email, l'indirizzo di posta elettronica è contatti@clrbp.it. Oppure potete mandarci un fax o telefonarci il mercoledì sera allo 06 68 64 201. Invece per i trillini così graditi come quelli di stasera e come sempre del resto, il numero della radio è 06 49 17 50. Invece il cellulare sul quale mandare i messaggini è 338 41 46 682. Noi chiaramente siamo le donne del coordinamento lesbiche romane. Io vi avviso, tra poco faccio un'altra azione di forza, faccio un colpo di mano e metto un'altra cantante che sicuramente, diciamo, è particolare, ecco, che siccome io ho una certa età, io, ecco, la amo molto, giuro che la canzone merita, però, anche perché è una rivisitazione di alcuni brani molto carini, spero la gradiate anche voi. E sulle note di questa cantante e di questa canzone a sorpresa, Pina mi guarda perplessa, non capisco perché, giuro che è una bellissima canzone. E il coordinamento Lesbiche Romane vi dà appuntamento alla settimana prossima. Ciao! Bella trovata. Beh, noi avevamo già salutato, ma c'è appena arrivato un messaggio da Catania. Io non so che dire, sono commossa, spero che ti piacciono le nostre trasmissioni. Noi siamo qui, siamo pronte a salutarti, ad abbracciarti e che ne so, scrivici ancora. E alla cara amica che ci scrive da Catania e che ci fa praticamente aprire il cuore, perché rafforza ancora una volta, no? E ci fa capire che il nostro lavoro, tutto sommato, non è un lavoro fine a se stesso. La saluto perché le dico che sta in una bellissima città. Io la prima volta che ho conosciuto, che sono andata a Catania, l'ho sentita come se fosse una città dove avevo sempre vissuto. È stata una delle pochissime città dove questo sia successo, la prima in assoluto, che mi ha fatto sentire come se fossi a casa mia, ed è per questo che adesso ci ritorno con grande piacere. E fra non molto, fra poco meno di 2 settimane, ci sarò per lavoro, anche se per soli 2 giorni. Con tutta la mia invidia. Chissà che il caso non ci faccia incontrare per caso e noi, i nostri sguardi si incontreranno e noi non sapremo che siamo quelle due, una che stava lì alla radio e l'altra che ha inviato il messaggino. Ok, un abbraccio. Finiamo di ascoltare Mina, perché di lei si tratta, ancora per qualche minuto. E vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Grazie, veramente ancora tante grazie per i trillini, per i messaggi, per le email che continuate ad inviarci. Non lo so, siamo contente. Quest'ultimo messaggio c'è pure un po' commosse, siamo senza parole. Aspetta, un abbraccio veramente. Ce n'è arrivato un altro. Salve, come sempre, una bella serata. Grazie ragazze e un forte abbraccio. La spagnola. Wow! Ok, siamo internazionali questa sera. Ok, di nuovo ancora. Tanti saluti, tanti abbracci e a presto. Nel frattempo che mi dilungavo in chiacchiere, Mina era finita. Ho dovuto mettere Alain Morissier, scusate. Comunque questa è veramente l'ultima volta che accendo il microfono, anche perché ci sono già le ragazze di Liberamente che va in onda dopo di noi. E di nuovo a martedì prossimo. Anche io vi saluto a martedì prossimo, vi abbraccio e buona serata a tutte. Tu non ci crederai, Pina, ma anche Alain Morissier è finita, per cui adesso ci salutiamo veramente, basta, non dico più niente, con Toni Braxton. About the love.